Siamo all'ultima settimana di maggio con il nostro appuntamento consueto dedicato a Pio X nel suo anno centenario della morte, e saranno molti gli appuntamenti in calendario da qui al prossimo mese di agosto, quando culminerà appunto quest'anno di celebrazioni, con sabato 23 agosto la Santa Messa presieduta dal Cardinal Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin. Noi proseguiamo il nostro viaggio di conoscenza, anche se volete un po' di ripasso della storia di San Pio X e della sua epoca, con l'intervista impossibile realizzata tra il 96 e il 97 dagli alunni della scuola media di Tombolo, che fu il primo paese della diocesi di Treviso in provincia di Padova, dove Don Giuseppe Sarto svolse il suo servizio sacerdotale come cappellano. Eravamo arrivati appunto a raccontare il periodo tombolano di Don Giuseppe Sarto. Poi ci fu la nomina appunto a parroco di Salzano dopo otto anni, anzi quasi nove anni di cappellano, altri nove anni nella parrocchia di Salzano vicino a Mestre dal 1867 al 1875, come racconta lo stesso Don Giuseppe in questa intervista impossibile. I notabili del paese, racconta, mi avevano accolto con un po' di distacco perché avrebbero voluto al mio posto non un semplice prete di campagna, veniva da una parrocchia della campagna appunto dell'Alta Padovana ed era originario di una parrocchia di campagna, Riese, ma avrebbe voluto qualcuno più alto locato. Tuttavia, quando sono partito, la gente di quel paese ha coniato per me due versi affettuosi: el se venuo coa veste sbrisa, el se partio senza camisa, cioè è venuto con la veste consumata ma è partito addirittura senza la sua camicia, riferendosi alle opere di carità verso i bisognosi che anche lì avevo continuato a praticare. Nel 1869 il governo italiano aveva imposto la tassa sul macinato, in pratica sulla farina e sul pane. Questo aveva impoverito ancora di più i contadini che da allora avevano cominciato ad emigrare in America. C'è una canzone che viene ricordata di quel tempo: prendi quel sasso, butta quel pan, paga la macina, porco villan. Ad aggravare la situazione si aggiunse poi l'epidemia di colera del 1873. Anch'io, ricorda Don Giuseppe, ho soccorso gli ammalati, sepolto i morti perché pochi lo volevano fare. A Salzano ho convinto un possidente del posto ad aprire una filanda per dare lavoro soprattutto alle donne, ed è la famosa filanda Romanin Yacur. In un paese vicino a Salzano era morto un uomo facoltoso, racconta ancora Don Giuseppe in questa intervista. Da vivo aveva avuto degli screzi col parroco e questi cercava in tutti i modi di rifilare a me l'ingrato compito di tessergli l'elogio funebre, anche con la scusa della fama delle mie omelie. Prima di accettare però ho voluto informarmi sulla vita di quell'uomo, e allora il parroco mi ha mandato il suo cappellano con il preciso intento di convincermi. Questi esaltava eccessivamente le presunte buone qualità del defunto. Allora io, dopo averlo lasciato parlare per un po' e per fargli capire che trovavo le sue lodi un po' esagerate, gli ho detto: cosse nasse tutti bei, cosse se sposa tutti siori, cosse more tutti santi. Il cappellano ha capito dunque l'antifona, subito ripiegato invece su toni più moderati e realistici. Quando si nasce siamo tutti belli, quando ci sposiamo tutti signori, quando si muore siamo tutti santi, anche se magari siamo stati dei poco di buono in vita. E queste dunque alcuni ricordi del periodo di Salzano. Proprio a Salzano, in occasione dell'anno centenario, e proprio la citata villa Romanin Yacur, sabato 31 alle 9 ospiterà l'inaugurazione della mostra documentaria dedicata a San Pio X, curata da Angelo Pavanello. La mostra sarà aperta sabato 31 dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 23 il 1 giugno, domenica, dalle 9 alle 23 con orario continuato. Alle 9.30 ci sarà un altro appuntamento su Giuseppe Sarto e la pittura, iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria, gruppi artistici Carlo Dalla Zorza e Andrea Celesti, Caritas della parrocchia di Salzano. Sarà una mattinata dalle 9.30, che precede appunto l'apertura della mostra, dedicata ad un aspetto poco approfondito della biografia di Pio X, il suo amore per la pittura. Giuseppe Sarto e il sodalizio con il pittore Pietro Nordio, l'intervento a cura di Francesco Stevanato. Ci sarà poi la premiazione del concorso di pittura che si è svolto nei mesi scorsi e poi l'inaugurazione della mostra. Il ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto al progetto della Caritas parrocchiale Non c'è famiglia senza casa, per sostenere le persone e le famiglie della comunità locale che sono in difficoltà. E poi ancora in serata, sabato 31, per completare la giornata, la rappresentazione teatrale su Giuseppe Sarto con la compagnia La Formighetta su testo di Quirino Bortolato. Tutto questo nell'ambito della festa della Filaturo, appunto alla Filanda Romanin Iacur di Salzano.